Sono le 7 spaccate, è lunedì, lunedì 28 di gennaio, l'anno ovviamente è il 2008, detto anche l'anno della svolta. La voce che vi arriva dai microfoni di Rock FM è quella dell'Ariele, pronto a condurre magistralmente anche stamane la trasmissione radiofonica che risponde al nome di pane, burro e rock'n'roll e che come ogni santissimo giorno inizia con la sigla, non potrebbe iniziare altrimenti, un inizio classico, sigla, sigla, parte, grazie Spadino, è andata, puntata 170, pane, burro e rock'n'roll, buona giornata a tutti voi là fuori, la tua colazione rock, che ci ascoltate nella diretta mattutina, pane, burro e rock and roll, e buona giornata anche a voi in fuorisincro, maledetti, state dormendo adesso, eh? E te mi curiti, se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare, pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. La nostra incredibile sigla che fa sempre parlare di sé, eh? D'altra parte è una bella sigla. No, mi riferivo a un po' di messaggi che giacciono nella mia casella di posta elettronica. Allora, il più carino di tutti è Valeria, io spero sia già sintonizzata a quest'ora, non so che tipo di mezz'orista è, tant'è che mi scrive via mail, ciao, vi ascolto tutte le mattine, volevo chiedervi se era possibile avere il testo della sigla di apertura di Pane, Burro e Rock'n'Roll, grazie, ciao Valeria. Valeria, è quello lì il testo, cioè, scusi, non me lo ricordo neanch'io, ma sono quelle quattro frasi buttate lì, non è che c'è poi anche la canzone, La canzone originale è un'altra cosa. Grazie comunque della richiesta. Adesso metterò Spadino o Isaac Rizzi lì a trascrivere il testo della nostra mini sigla e spedirtela. Mentre qualcun altro chiedeva, accade spesso e volentieri, dai, non vi arrabbiate se vi chiedo qual è il brano originale dal quale avete tratto pane, burro e rock and roll. Certo che te lo dico, è un piacere, ovviamente. E il buon Yanduri con l'originale Sex, Drugs and Rock and Roll. Ci sembrava un po' troppo forte il messaggio sesso, droga e rock and roll alle 7 del mattino e quindi è stato tramutato in pane, burro e rock and roll. Grazie alla genialità del nostro Roberto Fricantoni. Ah, ecco, l'ho detto. Anche quest'oggi passerà a trovarci. Nel corso della mattinata che inizia ufficialmente così con Mr. Lou Reed e la sua Wild Child. Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain. Crack up, they carried him too far. Then we spoke of movies and verse and the way an actress held her purse. magicians, how they made her ill. The life of the theater is certainly fraught with many spills and chills. But she calmed down after some wine, which is what happens most of the time. Then we sat and both spoke and rhymed till we spoke of the rain. Always back to the rain. I was talking to Ed, who'd been reported dead by mutual friends. He thought it was funny that I had no money to spend on him. So we both shared a piece of sweet cheese and sang of our lives and our dreams and how things can come apart. Talked of the rain, always back to the rain. She's a wild child, oh, and nobody can get at her. She's a wild child, oh, and nobody can get to her. Sleeping out on the street, oh, living on. A tutti gli sbarbi selvaggi, a tutti i wild child e alle wild child all'ascolto, l'inizio targato Lou Reed. Ricordo un primo maggio a Tor Vergata, grande Lou, te lo scrive il burro così di prima mattina. Buona giornata anche a te, maledetto! Era pur parlé, niente di personale. Vi ricordo le coordinate per costruire assieme questa trasmissione radiofonica. Classico, veramente un inizio classico, puntata 170. 335-100-7777 oppure una casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com. Anch'io sono un po' wild child, colazione con pane, salame e succo alla mela verde. Lo so, raga, sono trash, un cifrone. Yuri, il frazionato di Firenze. Beh, dai, pane, salame e succo alla mela verde, effettivamente. Non fai mancare nulla al tuo stomaco, ecco. Io lo avrei fatto anch'io qualche tempo fa. Ultimamente sono diventato delicatino. Questo per rendervi partecipi della vita intestinale del vostro speaker di riferimento, perché no? Voi spesso ci ricordate cosa accade a quest'ora della vostra giornata, non vedo perché non farlo io. Non dovrei già tuffarmi sui messaggi, ma siete tantissimi e devo fare un saluto particolare a Duccio da Firenze, che mi ha regalato un'emozione in questo lungo weekend di bagordi a suon di rock and roll. Mi scrive: buongiorno Aliele, vi ho visto dietro Palazzo Vecchio a Firenze venerdì, patentato 1007. Duccio, avevo compreso che eri un radioascoltatore, non subito, non immediatamente, perché così passeggiando per Firenze uno non pensa di non trovare nessuno, essendo di Gallarate, no? E invece incroci lo sguardo con quel rocker lì che ti guarda male e i casi sono un paio. Subito pensi, ho mai suonato con lui? No. Forse gli ho rubato una ragazza. Tre, ah no, forse sente Rock FM. Che poi è la soluzione migliore. Allora, quando arrivo allo step 3, forse un radioascoltatore, scatta anche il saluto. No, perché se è l'ipotesi B, o io o Derio gli abbiamo rubato la ragazza, di solito scatta la rissa, che veramente no. Cioè, di solito è l'opzione che cerchiamo di scartare, perché né a me né a Deriu piace fare cazzotti in faccia. È arrivato Freak, eh? This garden that I built for you, they're just sitting now and here. I will never leave it, dear, I could not bear to return. into the sea. The geraniums on your windowsill, the carnations dear and the daffodil. Well, they're ordinary flowers, but they long for the light of your touch and of your trembling will. You're trembling still, and I'm trembling too. To be perfectly honest, I don't know quite what else to do. So bring it on. Bring it on. Every neglected dream. Bring it on. Every little scheme. Bring it on. Every little fear. And I'll make them disappear. Iniziare una nuova settimana, se non fosse che grazie alle FUS, anche quest'oggi il regalo di pane, burro e rock and roll ai nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici si chiama Roberto Fricantoni. Buona giornata. Buona giornata a voi e bentrovati. Un encomio particolare alle FFSS che quest'oggi erano particolarmente puntuali. Un 28 di gennaio che la vede in splendida forma, le va di tuffarci di testa nell'almanacco del giorno che fu? Naturalmente, per non favorirla, le risponderò no. E invece attacco io, perché era il 28 di gennaio del 1855. Del, scusi? 1855. Oh, come la prende alla larga. La prima locomotiva corre dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico lungo la Panama Railway. Yeah! Che rock. È più rock la locomotiva o la Panama Airway? Beh, entrambe. È una bella gara. Sono tutte e due molto rock. La prego, prosegua pure con l'almanacco. Sì, infatti la ringrazio perché, prego. DJ Ariele, perché ho una notizia succulenta. L'Islanda nel 1935, il 28 gennaio per l'appunto, diventa, badate bene, l'Islanda, la terra dei ghiacci, diventa la prima nazione al mondo a legalizzare l'aborto. Hai capito? A mente fredda riuscivano a ragionare nel 35. Sì, esatto. L'aborto, ricordiamolo, dolorosa necessità, non certo mezzuccio rifugio un peccatorum alla leggera. Mentre nel 1956, sempre il 28 di gennaio, un certo Elvis Presley fa la sua prima apparizione televisiva. That's alright, mama. Dice? That's alright. Le viene bene Presley, mama, di prima mattina. Chiudiamo con una brutta notizia invece del 28 di gennaio. Aia. Nel 74 moriva lo scrittore Dino Buzzi, autore del Deserto dei Tartari, Il segreto del Bosco Vecchio e Barnabo delle Montagne. Sì, Il deserto dei Tartari fu il suo più grande successo, dal quale poi si ricavò anche un film su questa attesa, una specie di aspettando Godot nel deserto, laddove non succedeva quasi mai nulla, e questo era il deserto da dove un avamposto italiano aspettava che arrivassero i tartari, e questi tartari si fecero desiderare. Un saluto a Dino. Un saluto a tutti i tartari. Poetessa del rock, Patti Smith, Frederick. 7:19 minuti primi, la nostra colazione, ovviamente la colazione più rock d'Italia. Devo confessarvi che grazie alla redazione affronto da qualche mese pane, burro e rock and roll con dei fogli A4 che erano iniziato essendo uno, massimo due, la scaletta e qualche numero di telefono. A oggi sono sulla trentina di fogli. Adesso redazione, vi dico, se volete andiamo avanti così, però io perdo il filo del discorso, capito? Non ci capisco più niente. I seri professionisti hanno delle redazioni che gli preparano, dovete fare gli schemini tipo bigini. Non facevate bigini quando eravate a scuola? Però non scrivete troppo piccolo, perché sono solito trasmettere a luci spente, mi piace farlo così, e quindi se scrivete troppo piccolo non vedo. Comunque è lunedì e non è una settimana normale tra virgolette per noi di pane, burro e rock and roll. Lo sapete, lo sanno gli affezionati, chi non è affezionato forse non lo sa, lo scopre adesso, che questo weekend, questa domenica che sta arrivando, oltre ad essere la prima domenica di febbraio, così tanto per ricordarvi che gennaio sta finendo, sarà anche la data del primo raduno surrealista di pane, burro e rock and roll. Tra l'altro, sempre nel weekend di serate, ho avuto modo di tastare gli ascoltatori, c'è fermento, c'è attesa per questa domenica 3 febbraio che ci vedrà vestiti da cowboy o da indiani a Celle Ligure. Lì Mario sta costruendo quello che già è stato ribattezzato, vedo via mail, il Rock FM Express, ovvero la carovana. È il carro di carnevale di Celle Ligure. Essendo una cosa surrealista, noi non sappiamo bene come gestirla. O meglio, non la gestiremo, sarà tutto un po' a caso. Però da qui a domenica un po' di cose dobbiamo farle. Tipo darci un orario e un appuntamento fisso, altrimenti effettivamente sarebbe un po' troppo campata per aria. Vedo via mail che un ennesimo ispezionante, questa volta Lillo, è passato da Mario e mi ha spedito ad aria@radiorockfm.com nuovi scatti fotografici della nostra carrozza di Rock FM, che già fu pubblicata sul nostro spazio, ovvero myspace.com/paneburrofm. Non capite di cosa sto parlando? Continuate a ascoltare la trasmissione, poi non c'è tanto da capire, o meglio non si può capire, se non che domenica 3 ci troviamo a Celle Ligure. Mi è stato anche riferito che qualcuno si lamenta del fatto che si è detto, sono le 7:20, posso parlare anche così, che in occasione del raduno surrealista verranno consegnate delle patenti da vero rocker senza test attitudinale. Io confermo questa cosa. È giusto, sono patenti guadagnate sul campo, quindi si può fare solo in rare occasioni. Quindi confermo, ci saranno le patenti da vero rocker. Come le gestiremo? Questo non lo so, non è dato sapere. Tante cose non sono date da sapere. Sappiate, redazione, che per oggi, se ce la facciamo, vorrei parlare con la ragazza che vuole venire con l'asino, cioè col mulo vero. Vorrei convincerla che magari è meglio di no, o glielo facciamo portare. Dai, glielo facciamo portare, va bene. Voi trovatemi il numero, poi si vede. Proseguiamo, romantici. Waiting for a girl like you. Stavo aspettando una sbarba come te. It's a matter of time.